da Piazzale Clodio, dove è iniziato il presidio. Abbiamo una corrispondenza. Pronto, ci senti? Sì, pronto. Un buongiorno a tutti e tutti. E niente, ci vuoi un po' raccontare? Sì, sì, ti sentiamo. Se ci vuoi raccontare un po' le motivazioni del presidio e come si sta articolando. Allora, come saprete, quella di oggi è già la seconda udienza di questa settimana per quanto riguarda il processo contro i compagni e le compagne che erano in piazza il 15 ottobre 2011 a Roma. Il presidio organizzato per oggi, come sapete, a ridosso di ogni udienza è organizzata sia una presenza in aula, sia una mobilitazione all'esterno per non lasciare nessuno e nessuna sola di fronte a questo ennesimo attacco dello Stato contro chi alza la testa ogni giorno per vivere una vita degna piuttosto che la miseria che ci vorrebbero imporre. Quello di oggi è un presidio che è già ultra partecipato e molto rumoroso. Diciamo che più o meno la composizione è quella, è già abbastanza evidente, si parla di occupanti di case che insomma è già ormai da tempo che danno battaglia in città e sono venuti a solidarizzare con i propri compagni e le proprie compagne che sono sotto processo. E sicuramente c'è una alta partecipazione anche dei compagni e delle compagne che stanno animando la 4 giorni di solidarietà denominata 8brata romana. Si parla già di 300 persone in piazza, ma continuano ad arrivare e diciamo che c'è una militarizzazione estrema, viene negato l'accesso dentro l'aula del tribunale, viene consentito soltanto a una ventina di compagni di presenziare all'udienza e di stare al fianco dei 18 sotto processo. E il tribunale è totalmente assillato dalle forze dell'ordine, come ormai tutta la città in queste giornate. Non so, penso che ognuno di noi possa notare come blindati carrozzino continuamente per le strade di Roma. Penso che si siano dati appuntamento in massa qui proprio per cercare di restituire soltanto paura in un contesto dove invece penso che sia proprio chi ha il potere ad avere paura, dato che si parla di una settimana, anzi 10 giorni di mobilitazioni continue che poi sfoceranno appunto nello sciopero di domani e nel corteo di sabato. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza animata, il presidio è davvero rumoroso. Penso che questa piazza non ci possa contenere tutti e tutte, quindi penso che passo dopo passo proveremo a prenderci qualche spazio in più di strada. E l'invito è a raggiungerci il prima possibile, ovviamente è un bel momento per dimostrare che c'è compattezza nel difendere questi 18, perché la loro libertà è anche la nostra. Mi aggiungo insomma al tuo invito per tutti e tutte a raggiungervi al più presto insomma a Piazzale Clodio e insomma i microfoni e la radio sono aperti se volete, se cambia qualcosa ci risentiamo più tardi. Va bene, un abbraccio forte. A voi. Lotta a tutte e tutti. Ciao, ciao, buona lotta. Ciao. Ciao.